La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole anche questa settimana è dedicato alla dissoluzione dell'Unione Sovietica. Ospite ai nostri microfoni lo storico Andrea Graziosi, ordinario di storia contemporanea all'Università Federico II di Napoli, autore di diversi volumi sull'ex Unione Sovietica, tra cui L'URSS dal trionfo al degrado, Storia dell'Unione Sovietica 1945-1991, pubblicato dal Mulino. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Vent'anni fa, due anni dopo il crollo del muro di Berlino, l'Unione Sovietica si dissolveva. Il mondo voltava pagina ponendo fine al lungo periodo, di fatto cominciato nell'immediato dopoguerra, che aveva visto le due superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica, reggere da fronti opposte, nei lunghi anni della Guerra Fredda, gli equilibri geopolitici delineati già dalla conferenza di Yalta. Si usa spesso a sproposito il termine storico, ma per la dissoluzione dell'Unione Sovietica non c'è altro termine migliore per raffigurare quel che accadde nel breve volgere alla fine di pochi mesi. Con il crollo dell'ex impero sovietico si decretava altresì la fine dell'esperimento tentato da Mikhail Gorbaciov, la cosiddetta perestroica. La prima fase della perestroica va dal 1986 al 1989. È una rivoluzione dall'alto. L'impulso alla trasformazione viene da Gorbaciov e dai riformatori riuniti attorno al segretario generale. A partire dal 1989 il quadro cambia. Le riforme attuate suscitano una rivoluzione dal basso che prepara il terreno alla dissoluzione dell'URSS. Il congresso del Partito Comunista Sovietico, che si riunisce nel maggio-giugno del 1989, rappresenta una svolta irreversibile nella perestroica. Le fonti di legittimazione del potere passano dal partito alla sovranità popolare. In tal modo, il congresso segna l'avvio del processo di separazione dello Stato dal partito, inestricabilmente fusi fin dagli anni 30, un processo che sarà completato all'inizio del 1990 dall'elezione di Gorbaciov, presidente, e dall'abolizione dell'articolo 6 della Costituzione, che sanciva il monopolio del PKUS sul potere. Con la caduta del muro di Berlino, l'opposizione democratica si radicalizza e preme su Gorbaciov perché acceleri le riforme attraverso il passaggio immediato al mercato e alla democrazia. Un'ondata di proteste e manifestazioni attraversa il paese, lacerato dall'acuirsi delle tensioni nazionalistiche. Da questo momento in poi il processo riformatore possiamo dire che sfugge completamente di mano a Gorbaciov. E con un gesto plateale, a luglio, al 27° congresso, i riformatori, Yeltsin in testa, escono dal partito. L'11 marzo 1990 la Lituania aveva dichiarato l'indipendenza ed era uscita dall'Unione. Il 30 marzo il Consiglio Supremo estone aveva avviato a sua volta il processo per ristabilire l'Estonia come uno Stato indipendente. Il 20 agosto 1991 le repubbliche dovevano firmare un nuovo trattato di unione che le rendeva repubbliche indipendenti in una federazione con un presidente, una politica estera e un esercito comuni. Il 18 agosto un gruppo di ministri di Gorbaciov, guidati da Gennady Yanyavev e appoggiati dal KGB e l'esercito, inscenarono un colpo di Stato. Gorbaciov venne tenuto prigioniero nella sua residenza estiva sulla penisola di Crimea e il 19 agosto venne dichiarata la legge marziale. Boris Yeltsin e il Parlamento russo si opposero al colpo di Stato e gli organizzatori si arresero il 21 agosto. Immediatamente dopo il fallito colpo di Stato e prima che Mikhail Gorbaciov ritornasse a Mosca, il vuoto di potere venne riempito da Boris Yeltsin, il quale firmò immediatamente un decreto che bandiva il Partito Comunista in tutta la Russia, che venne esteso a tutta l'Unione Sovietica. Si decretava in tal modo la fine di 70 anni di regime comunista. Il 21 dicembre 11 delle 12 repubbliche rimanenti, tutte certo la Georgia, fondano la Comunità degli Stati Indipendenti, ponendo così effettivamente fine all'Unione Sovietica. Il 25 dicembre Mikhail Gorbaciov si dimette da presidente e il 26 dicembre il Soviet Supremo scioglie ufficialmente l'Unione Sovietica. Su questi argomenti abbiamo deciso di intervistare il professor Andrea Graziosi, che è ordinario di storia contemporanea all'Università Federico II di Napoli, autore di diversi volumi sull'ex Unione Sovietica, tra cui segnalo L'URSS dal trionfo al degrado, storia dell'Unione Sovietica 1945-1991, pubblicato dal Molino, una ponderosa storia, e sta per uscire proprio in questi giorni per il Molino un nuovo libro, Storia dell'Unione Sovietica. Professore, grazie intanto grazie per aver... Grazie a lei, buonasera. Buonasera. Allora, ci racconti e ci dica dal suo sguardo di storico che tratta da anni in modo così dettagliato le vicende dell'ex Unione Sovietica, qual è la sua valutazione di quel che accadde 20 anni fa? Sì, io direi partirei proprio dalle vostre schede per, diciamo, confermare una cosa e forse correggere un'altra, cioè... È verissimo che le riforme lanciate da Gorbaciov e dai riformatori, che erano la stragrande maggioranza del gruppo dirigente, sono diciamo, l'anima e il momento iniziale del processo e che hanno una prima fase che arriva fino all'88. Ecco, questa prima fase è interessante perché loro credevano davvero di poter rinnovare il sistema usando il partito come strumento per il rinnovamento, quindi era un progetto interno, diciamo, la storia sovietica. La cosa vera che accade nel 1988 è che, dato il fallimento di questi 4 anni di riforme, loro decidono in realtà che il partito è un ostacolo alle riforme, che il sistema dello Stato partito va cambiato, e iniziano a disegnare un progetto, e poi quello fallito, ma che aveva forse le speranze di vita, di, come dire, staccare il sistema sovietico, il sistema socialista, chiamiamolo, dallo Stato, in modo da poter salvare almeno lo Stato. Questo è il progetto dall'88 in poi. Progetto che fallisce, ma fallisce anche per contingenze. Non direi che fallisce per una pressione popolare che in realtà, diciamo, è sempre stata molto, relativamente molto piccola, tranne che per i grandi scioperi dei minatori. Anche lo stesso 89, secondo me, non si può spiegare il crollo dell'Unione Sovietica all'89, è vero il viceversa, cioè è vero che l'Europa orientale può andarsene perché l'Unione Sovietica ha rinunciato all'uso della forza che aveva usato nel 56 a Budapest, nel 68 a Praga, cioè in un certo senso è un paradosso, ma il 91, cioè, diciamo così, la perestroica che spiega l'89, non l'89 che spiega il 91. Direi che questa operazione di distacco dello Stato dal sistema non funziona, anche probabilmente per quel tentativo golpista di cui avete parlato, che fa, diciamo, precipitare la decisione di abbandonare la nave. Ma fino allora le cose, insomma, c'era un nuovo trattato in via di definizione. L'altra cosa che aggiungerei, perché molti lo sottovalutano, è che quel trattato di cui lei ha parlato, che mette fine all'Unione Sovietica, questi accordi del dicembre 91, tutti ne parlano in genere molto male, ma in realtà è un trattato molto serio perché ha permesso un divorzio civile. Io penso sempre uno debba ricordarsi quello che succedeva nel 91 nella Jugoslavia, c'era ancora allora, dove inizia una guerra civile che ha fatto più di 200.000 morti, certo, in un paese molto più piccolo, perché non c'è un divorzio consensuale. E guardi che nell'Unione Sovietica c'erano le minoranze, c'era tutto. La cosa per cui noi dobbiamo essere grati sia a Gorbaciov che a Yeltsin, che in realtà quasi tutti i gruppi dirigenti delle repubbliche ex sovietiche, è che sono arrivati a un divorzio consensuale, benché ci fossero bombe atomiche, minoranze, rivendicazioni territoriali. Cioè, da questo punto di vista, da un punto di vista direi generale, umano, quei trattati sono stati uno dei più grandi successi nel XX secolo. Certamente, l'abbiamo detto, quel che avvenne 20 anni fa è un punto di vista, un passaggio storico. Com'è cambiato il mondo in questi 20 anni? Ma guardi, io direi così, che più ci allontaniamo da allora, più risulta chiaro che il grande evento della secondo dopoguerra, dei decenni del secondo dopoguerra, non è la guerra fredda e non è l'equilibrio bipolare. Questa è una cornice, il grande evento è la decolonizzazione. E più, diciamo, riflettiamo su quei decenni, più forse il cambiamento vero degli anni 70 sono le 4 modernizzazioni di Deng Xiaoping in Cina, lanciate nel 76, e la decisione indiana di abbandonare il modello, diciamo, si definiva socialista, di Nehru. Nehru era un socialista nazionale nel senso buono del termine. E in realtà, diciamo, se lei, io direi che questo passaggio epocale che inizia negli anni 70 e che noi non abbiamo visto perché in parte fino al 91 nascosto dal vecchio equilibrio bipolare all'interno di cui si inseriva, e poi dopo il 91 perché insomma siamo abituati a fissare gli occhi sull'Occidente, sugli Stati Uniti, è la cosa vera ed importante. Quindi da questo punto di vista la fine dell'Unione Sovietica sì è stata importantissima, la fine della Guerra Fredda è stata importantissima, ma i motivi di la grande svolta, che è quella dall'Occidente verso, diciamo, l'Oriente e poi magari un domani l'Africa, diciamo verso i paesi decolonizzati, poi sostanzialmente certo. È una svolta che ha radici un po' più lontane e che si compie negli anni 90 definitivamente, certo. Indipendentemente dalla fine dell'Unione Sovietica da un certo punto di vista, perché le quattro modernizzazioni in Cina sono indipendenti dall'Unione Sovietica. Professore, grazie per il suo contributo. Grazie, allora, a lei. Lo ricordiamo ai nostri ascoltatori che sta per uscire per il Mulino un suo nuovo libro, Storia dell'Unione Sovietica. Grazie mille, arrivederci.